La latta rotonda nel ripiano alto del frigorifero era sempre un po' unta. A prenderla in mano ci si restava quasi incollati, come a formare un'unica entità ibrida e ideale che costituiva il principale desiderio del mio palato e il buco senza fondo dell'iperestesia tardomoderna. All'interno c'era una tersa sostanza bianca che nemmeno le lunghe e fascinose reverie di un Gaston Bachelard avrebbero potuto descrivere nelle sue ricchezze materiche e nella sua algida compiutezza cromatica. Questa sostanza era assai consistente, al punto che per essere correttamente consumata andava allungata con un tot d'acqua di rubinetto riscaldata sul fornello col pentolino, a ipocritamente ricostituire ciò che non era mai stata, ovvero una porzione di latte caldo per la sedicente colazione del bambino, cioè di me, forse proprio per questo tendente all'adipe già da allora. Tutto questo per dire che quando secoli dopo inventarono lo spremi e gusta alla vaniglia e al cioccolato da consumare in tubetti o in minuscoli tetrapack trapezoidali, spremendolo direttamente in bocca, per me era tutto già déjà vu. Seppure con una gran voglia di rivalsa sociale, ma come? Per anni avevo goduto del latte condensato con timorosa vergogna, avevo leccato il cucchiaio ancora ricco del suo unguento celestiale, ingenuamente sperando che i miei genitori, complici silenziosi, non diffondessero la voce fra cuginetti infidi e mocciosi compagni di scuola. Avevo barattato ogni possibile agilità, ogni eventuale performance sportiva, ogni aspirazione verso un fisico da bronzo di Riace per la mia dose giornaliera di quella sostanza bianchissima e dolcissima adoperata con goffa maestria. Ed ecco che adesso erano tutti lì a succhiare anche troppo pornograficamente quella medesima sostanza, senza neanche provare a dissimulare il loro evidente piacere e soprattutto senza ammantare di buone maniere quell'ancestrale aspirazione al gusto supremo che ha caratterizzato, nel bene come nel male, la mia personalissima infanzia. Gianfranco Marrone per pastiche. Ecco, questi che vi stiamo lanciando, così come delle palline che rimbalzano, sono, come diceva Andrea, dei pezzi che abbiamo arbitrariamente eletto tra quelli, diciamo così, che compongono, gli articoli presenti in pastiche. Pastiche, che pastiche. L'abbiamo voluto chiamare così perché questo nome in realtà è nato dopo, è nato quando abbiamo cominciato a raccogliere tutti questi scritti che quasi per scommessa all'inizio quest'estate, anzi all'inizio, inizio dell'estate tra maggio e giugno, quando abbiamo cominciato a lavorarci, perché è stato un lavoro lungo e faticoso, anche se è difficile poi condensarlo, quando si ha in mano così un centinaio di fogli, no? Sembra una cosa semplice, ma per noi non lo è stato, non lo è stato perché si partiva da zero, avevamo un'idea, volevamo sì, prima di tutto ricordare Veronelli, ma non lo volevamo fare entrando nel dispositivo reazionario del ricordo, non ci interessava questo, non abbiamo voluto costruire monumenti. Pastiche non è un monumento, pastiche è una carta che canta in divenire, pensando a Veronelli, ma non con lo sguardo rivolto all'indietro, con lo sguardo rivolto al futuro. E io credo che Luigi Veronelli, avrebbe voluto che fosse così il suo ricordo, rivolto al futuro, non guardando all'indietro. Scusate, anch'io sono un po' emozionata. E quindi l'abbiamo chiamato pasticcia alla fine, perché abbiamo parlato con tante persone e tante persone ci hanno risposto, e sono tutti gli autori di pastiche. Tra l'altro, alcuni presenti qui stasera, poi li presenteremo individualmente. E come diceva Andrea, hanno tutti contribuito volontariamente. E sono autori che grazie, ci hanno dato dei linguaggi diversi. Sono come Nicoletta Orsomando quando faceva le annunciazioni televisive nella Rai a un canale. Autori diversi e linguaggi diversi. Andrea, li vorremmo però nominare uno per uno, perché è importante farlo, perché cominciando da... è qui presente con noi e ci fa un grande onore Gianni Mura, che forse tutti conoscete, anzi sicuramente non ha bisogno di presentazione, grande giornalista, grande penna, che ha conosciuto e frequentato Veronelli, e quando l'abbiamo contattato per chiedere se aveva voglia di raccontare così appunto il suo ricordo, ma anche guardando liberamente al mondo del cibo e del vino, ha fatto una cosa straordinaria, perché ha composto per Pastiche, e infatti sono contenuti in apertura, in chiusura di Pastiche, alcuni stornelli, che noi poi abbiamo chiamato Stornelli Veronelli, perché ci sembravano, sono dedicati a Luigi Veronelli e sono di straordinaria bellezza. Infatti un grandissimo ringraziamento a Gianni Mura per averceli inviati. Barton Anderson, giornalista, riferimento per la cultura gastronomica italiana all'interno del Herald Tribune per diversi anni, scriveva per un pubblico anglosassone negli stessi anni, gli anni 70, in cui Veronelli scriveva per il pubblico attento ai temi del cibo, del vino, allora pressoché sconosciuti per la massa, per il pubblico italiano. Quindi ha due riferimenti, diciamo, un po' contemporanei, Anderson da una parte e Veronelli dall'altra. Ha scritto un pezzo sull'olio. Gianfranco Marrone, ho appena letto la sua descrizione del latte condensato Nestlé, che tutti avrete riconosciuto, naturalmente è ironica e è collocata all'interno di un pezzo che vi invito a leggere per intero, perché quella è soltanto ovviamente una macchiolina, così, che vi dà l'idea di cosa può essere quel pezzo. È un importante semiologo, insegna all'Università di Palermo e dirige anche il Master Europeo di Cultura e Comunicazione del Gusto. Josko Grauner, forse qualcuno di voi lo conosce, un produttore che è riferimento, diciamo sia riferimento all'interno del Collio Börda goriziano, quindi sia italiano che sloveno, perché Josko Grauner è sloveno, vive in territorio italiano, è un grande vignaiolo che ha eletto la ribolla, diciamo, come sua uva e vino simbolo, e ha, come forse credo tutti sapete, sperimentato l'anfora interrata. Ha voluto per noi, lo siamo andati a trovare, ha voluto fare una chiacchiera con noi, e questa lunga chiacchiera, che guarda al futuro, non al passato, è contenuta all'interno di Pastiche. Ilaria Bussoni, che è anche l'unica autrice donna, lo dico così non perché voglia fare una riserva, ma perché ci tengo a dirlo, è editor di Derive Prodi, l'importante casa editrice che ha fondato, cofondato, si è laureata all'Università di Parigi 8, è stata allieva di Gilles Deleuze ed è saggista, in particolar modo in quest'ultimo periodo si occupa di critica cinematografica, ma per Pastiche ha voluto scrivere un pezzo in cui ricorda Veronelli e ne traccia in maniera esemplare la figura di fondatore della critica gastronomica italiana, come è stato, e quindi spiega perché per filo e per segno dal suo punto di vista lo è diventato. Ma il pezzo, lo voglio dire, comincia anche con un ricordo particolare, che è una storia di Natale, ma non melensa, in cui compare Pinorato, che anche qui stasera vogliamo ricordare e ricorderemo, recentemente scomparso. Gigi Brozzoni è qui accanto a me, non so se ha bisogno anche in questo luogo di presentazioni, perché l'ho frequentato anche lui per tanti anni, accompagnandolo con le sue immaginative degustazioni. Stasera non è qui per fare una degustazione, ma farà una degustazione di parole. Peccato, dice giustamente. Però comunque con lui assaggeremo poi un vino alla fine, perché non potrà mancare. Gigi è stato, come diceva Andrea, per oltre un ventennio, 25 anni, 26, 25 anni, quindi direttore del Seminario Veronelli, amico di Luigi Veronelli, grandissimo, forse il più grande assaggiatore di vini. Non so quanti ne assaggiano, mai, penso che il conto no, per lui troppo pochi sempre, comunque, e anche lui ci ha regalato un pezzo molto importante, un pezzo che ha voluto un po', diciamo, mettere a fuoco cinque idee che hanno sconvolto il mondo enologico, perché lo hanno sconvolto proprio nel senso positivo, naturalmente, il mondo enologico italiano. Ecco, quindi una lettura, diciamo, anche questa, che guarda al passato ma riproiettandolo al futuro, perché sono le cinque idee su cui è stato fondato e rifondato quel mondo. Gian Emilio Simonetti, intellettuale situazionista, post-situazionista, che ha collaborato a lungo, è stato il fondatore di una rivista importante nel panorama della gastronomia, della cultura anche post-underground italiana, che era La Gola, forse qualcuno la ricorda, non lo so, è stata però molto importante. Attualmente insegna antropologia, ha pubblicato molti libri recentemente con la casa editrice Derive a Prodi in particolare. Marco Noferi, che è anche con noi qui stasera, produttore di vino, di olio, in Valdarno, interverrà dopo, riferimento importante per quel territorio, sia per le sperimentazioni agricole, sia per le riflessioni teoriche, in particolare ultimamente sull'olio, e proprio di olio ha scritto un bellissimo racconto, che è un racconto appunto di ricordi, ma anche un racconto fatto di riflessioni, anche qui rivolte in avanti, per Pastiche. Ciro Tarantino, ho letto prima un suo pezzo, quello che parlava, diciamo così, della deriva mediatica legata al cibo. Ciro Tarantino è un sociologo, insegna sociologia dei codici culturali all'Università della Calabria, ha pubblicato i suoi ultimi titoli per Quodlibet ed è stato veramente, come tutti gli altri, entusiasta di partecipare a questo progetto per sperimentare linguaggi diversi all'interno del panorama gastronomico. Gianni Capovilla, forse Capovilla questo vi dice qualche cosa, è uno sicuramente dei più grandi distillatori italiani, riconosciuto già da Veronelli, fu presente a una manifestazione che si fece proprio qui a Leoncavallo nel 2004, giugno 2004, che si chiamava DIST, che era dedicata all'eccellenza del mondo della distillazione italiana. C'era anche Capovilla in quell'occasione, che raccontò della piccola distillazione di qualità, e qui lo racconta oggi con i progressi che ha fatto. Luigi Moio, abbiamo aperto proprio con il suo ricordo di Veronelli, ordinario di enologia all'Università di Napoli, anche lui stesso produttore, figlio di un produttore che ha riscoperto il Falerno, il vino amato dai romani, quindi diciamo con una storia importante nel mondo del vino, e anche con una relazione importante con Veronelli, che lui ricorda, ma per, diciamo, estrapolare un paradigma veronelliano. Questa è la cosa importante, usare il ricordo, lo ribadisco perché è stato importante, per aprire una riflessione, aprire una porta, il ricordo non per chiuderla, ma per aprirla una porta. E ancora Josko Sirk, torniamo nel Coglio, un ristoratore che gestisce attualmente con la sua famiglia ancora un ristorante che è stato uno dei ristoranti del cuore di Veronelli. Infatti lui parla di questa minestra di Veronelli come, diciamo, un archibugio poetico che può servire per valorizzare i territori marginali geograficamente come il Coglio, ma che possono essere centrali a livello antropologico e di eccellenze produttive. La Terra Trema anche. La Terra Trema è un autore collettivo che ha scritto un bellissimo pezzo per Pastiche, una riflessione sulla gastronomia, appunto, e sulle relazioni sociali sottese alla gastronomia, che in qualche maniera tiene assieme contraddizioni, perché dalle produzioni lussuose gastronomiche a prezzi altissimi, che appunto magari sono svuotate di senso, a quelle magari d'eccellenza però meno visibili. Una riflessione che parte da luoghi come questo, ci sembrava giusto e doveroso che ci fosse. Ecco, quindi c'è stato questo saluto, ma il saluto non era solo, diciamo, ospitiamo un progetto, ma loro sono nel progetto Pastiche. Angelo Gaia, anche qui credo non ci sia bisogno di presentazione, Angelo Gaia ha voluto ricordare con noi Veronelli, ne fu amico, è sicuramente uno dei più grandi vignaioli italiani. Leggeremo poi una cosa che lui ha voluto regalare, un piccolo ricordo che ha voluto regalarci su Veronelli. Poi Gonzalez Sainz, che è uno scrittore spagnolo molto noto in Spagna, che però insegna anche all'Università di Venezia, che ha voluto dedicare a Veronelli, che ha sempre seguito da lontano, un bellissimo racconto, è una proprio un piccolo racconto che si chiama L'ultimo trago, l'ultimo bicchiere con cui si chiude Pastiche. Questi sono gli autori. Chiedo scusa se sono stata lunga, ma ci sembrava giusto ricordarli uno per uno, perché sono stati molto generosi nella partecipazione e nel voler esserci. Quindi ecco perché dicevo Pastiche alla fine, perché questi linguaggi sono veramente diversi. Pastiche è una preparazione che è fatta di ingredienti diversi, nascosta all'interno di una crosta di pane, di pasta. E questa crosta, che è stata un po' per noi il progetto grafico, è stato seguito invece da, e lo vogliamo citare perché di solito il lavoro grafico non è mai citato, ma invece per noi è importante citarlo perché è stato parte del progetto, è stato parte di Pastiche anche quello, cioè qui con noi infatti Andrea Muhem stasera, che ha seguito la parte grafica. Alza la mano e mostrati. Quindi la copertina schizzata che vedete in quattro versioni, scegliete la vostra, è opera sua, ma all'interno ci sono delle altre cose, ci sono delle fotografie fatte per Pastiche da Annette Fischer, una fotografa svizzera che ha voluto per noi proprio pensare quelle immagini, e oltre a delle fotografie storiche di Mario Giacomelli e Luigi Ghirri, che abbiamo voluto scegliere per a livello di testimonianza sia estetica che concettuale. E poi, chicca ultima ma veramente importante, ci sono le illustrazioni di Sandro Fabbri, a cui teniamo in maniera particolare perché hanno attraversato, eccolo, il toscanaccio. Non so se nel frattempo ha deciso e vuole dire qualcosa. No, no. Parli la sua penna, parli la sua penna. Sono suoi ritratti di Veronelli, poi rielaborati da Andrea. Anche lui è stato dentro Pastiche, è stato parte del progetto. Ecco, quindi insomma dicevo, linguaggi diversi, si poteva chiamare solo così, solo un bel Pastiche. Questo però lo dovete dire voi, perché finché non l'avrete letto non potrete giudicarlo, ecco, in questo senso. È stata per noi veramente una grande fatica. Crediamo che il prezzo che ha, voglio dire anche questo, non so, è una cosa poco canonica, ma ci tengo a dirla, costa 15 euro, è un prezzo che per noi come associazione va al costo, cioè nel senso noi non ci guadagniamo niente, all'interno di quel prezzo c'è il lavoro, quasi niente, un euro. Non si fanno sconti. Insomma, è il costo, penso, di una pizza margherita e di una birretta piccola più o meno, o il costo di una bottiglia di vino, che però vi potete bere più volte, come faceva notare Andrea oggi pomeriggio, perché non finisce. Ve lo portate a casa, ma è lì, scusate lo spottone, ma è stata veramente una grande fatica. Ecco, io basta, ho parlato anche abbastanza. Adesso, siccome ho un po' la gola secca, e forse anche voi, potremmo fare un assaggio. Abbiamo... Dici tu due parole sul vino, Andrea?